Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Buongiorno a voi e benvenuti, buon sabato e buon sabato al mio coinquilino preferito Alberto, ciao. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, oggi non siamo soli. Siamo veramente in tanti. E per affrontare un tema che a noi stuzzica in modo particolare, mi auguro, anzi sono certa che piacerà anche a tutti i genitori e credo anche ai ragazzi all'ascolto. Quindi se i vostri figli sono a scuola, all'università, insomma in altre faccende affaccendate, però potete far riascoltare la puntata. Ci portiamo già avanti, Alberto, vero? Sì, con il magnifico servizio di podcasting di Radio 24. Andate sul sito della radio e poi sulla home page di Questa casa non è un albergo ed eccoci lì, noi con tutti i nostri magnifici ospiti. Che iniziamo subito a salutare. In linea abbiamo Red Ronnie, ciao Red. Buongiorno. Sempre in linea con noi una delle giovani rivelazioni dell'ultimo Festival di Sanremo, Luca Marino, ciao Luca. Buongiorno a tutti. Tu sei entrato nella rosa dei 4 finalisti tra i 10 candidati delle nuove proposte con la tua canzone Non mi dai pace. Siamo anche sopravvissuti a questo. In studio qui con noi Livio Remuzzi, che è un giovanissimo attore. Ciao Livio, benvenuto. Ciao a tutti, ciao Nicoletta. Ma per entrare nel tema di oggi, Alberto, ascoltiamo la mail da cui abbiamo tratto ispirazione. Ce l'ha scritta una mamma. Mio figlio Pietro frequenta l'ultimo anno delle superiori. Quest'anno sosterrà la maturità classica e poi... appunto, e poi... Noi genitori siamo molto preoccupati, perché dopo tutti questi anni di studio e impegno, sembra voler gettare all'aria ogni traguardo per dedicarsi alla sua più grande passione, l'arte. In questi anni ha dedicato tutto il suo tempo libero allo studio della musica e si è coinvolto nel lavoro di una compagnia teatrale di dilettanti della nostra città. Credo che lui sia davvero portato per una carriera artistica, ma guardando la TV mi sembra che i due settori in cui lui vorrebbe impegnarsi a tempo pieno, recitazione e musica, siano già abbastanza affollati e, tra l'altro, se non entri in qualche reality o talent show, per te non si apre nessuno spazio. Ho paura che Pietro sia destinato a diventare un eterno disoccupato. Lui vorrebbe frequentare una scuola d'arte privata. Noi siamo contrari e vorremmo che andasse all'università, considerato che ha sempre ottenuto ottimi risultati. Suo padre non si esprime. Dice che bisogna lasciarlo fare quello che vuole e che se deve sbatterci la testa che lo faccia da solo, poi capirà. Insomma, mi sento sola e in crisi come mamma. Che fare? Alberto, queste mamme da sole che devono aiutare i figli quando i papà dicono faccia lui. E mamme preoccupate in realtà, perché un figlio che comincia una carriera artistica e vuole fare di quella cosa lì il suo mestiere, il suo progetto di vita, effettivamente non so, tu se tua figlia dicesse da grande... Io sarei molto contenta. E quindi la spingeresti? Sì, assolutamente. Red, tu che cosa faresti? Per quanto riguarda l'arte... Se un ragazzo ha un sogno di fare la musica, va assolutamente lasciato libero di farlo, perché altrimenti rimarrà per tutta la vita scontento e frustrato, fare magari un lavoro redditizio, ma non... Ho visto giorni fa un film stupendo che consiglio a tutti, che si chiama La musica nel cuore. È un film meraviglioso, dove fa capire qual è l'importanza della musica per lo spirito, per la vita stessa. Io vorrei chiedere a Luca e a Livio se questa passione, Livio sta muovendo i primi passi come attore, quindi sta investendo il suo tempo, no, per raggiungere sì. questo obiettivo. Luca invece si dedica alla musica. Com'è nata questa passione, fin da quando eravate piccoli, Livio? Ma diciamo che io non ho mai avuto le idee assolutamente chiare su cosa avrei fatto da grande, da grande. No? Da quando sei piccolo tutti ti chiedono cosa vuoi fare da grande. E io mi ricordo che quando aveva, secondo me, 11 anni, una cosa del genere, mia sorella ha deciso che da grande avrebbe fatto la psicologa. E poi si è iscritta al liceo psicopedagogico, ha fatto psicologia, adesso fa la psicologa. E io avevo sempre pensato che mi sarebbe piaciuto recitare, diventare un attore. Ma non l'avevo mai visto come qualcosa che poteva concretizzarsi realmente. Mi sembrava un po' come il sogno del bambino che dice io da grande voglio fare l'astronauta. Sì. Lo dici, ma... Qualcosa però di molto lontano. Ci credi che... e non ci credi. Sembra esatto. Un sogno. Esatto. Quindi ho fatto il liceo scientifico, mi sono iscritto all'Università di Scienze Politiche e avevo un po' messo questo sogno nel cassetto. E poi secondo me arriva un momento nella vita in cui ti guardi indietro e vedi quello che hai fatto e vedi quello che vorresti fare e lì ho deciso che quello che volevo fare io era fare l'attore. Luca? Sì, eccomi. A te com'è andata? No, beh, diciamo che sono partito volendo fare tutt'altro. Sono partito volendo fare fumetti, che anche lì insomma avevo deciso già di mettermi in un settore in crisi. Poi nel corso del tempo il passaggio alla musica, che comunque ha sempre accompagnato quelli che erano comunque dei desideri. Io ho cominciato a fare musica per me stesso, in questo caso non diciamo che inizialmente partiva da me, era un discorso di passione. Sì. Mi sono ritrovato però a 20 anni di fronte a 2 anni di liceo anche completati, quindi all'abbandono degli studi. Una situazione non molto facile dal punto di vista per quello che riguarda l'istruzione, a scegliere la musica come ancora di salvezza, in quanto era l'unica cosa che mi veniva spontaneo di fare. E da lì ho iniziato comunque a cimentarmi in quelli che erano contesti dal heavy metal facendo il batterista, piuttosto che da solo chitarra, voce, casù e tamburello in diversi locali, fino ad arrivare a fare liscio, proprio per cercare di cercare di campare. È stato molto difficile, adesso però... ho avuto la fortuna di insomma questa possibilità che rende concreto il mio mestiere, lo rende un mestiere a tutti gli effetti, e non è comunque facile. Non è facile, però avete seguito la vostra passione, il cuore, Alberto. È proprio questo di cui il tema di oggi, andare dove ci porta il cuore, con impegno, costanza, i nostri ospiti ce lo dimostrano. E i genitori stanno a guardare, aiutano, accompagnano. Questa casa non è un albergo. Eccoci, abbiamo fatto presto, veloci veloci torniamo. Red, tu sei qui anche perché stai seguendo un evento creato a Milano che mette sul palco tanti di questi ragazzi, no? Che seguono un po' le loro passioni, abbracciano l'arte. Si chiama Live Me, ce ne parli brevemente, ci aiuti a capire che cosa vedi dall'osservatorio di questo evento, tanti ragazzi che partecipano, ma quanti potranno dire tra qualche decennio io vissi d'arte? Beh, intanto tutti possono dire ho partecipato, a tutti viene dato un video ripreso con telecamere che testimonia questa loro partecipazione. Oggi pomeriggio, come tutti i sabati pomeriggio fino all'8 maggio, nella metro di Piazza Duomo facciamo musica dal vivo. Oggi fra l'altro ci sarà anche Luca e ci sarà Federica Camba, quindi oggi sarà Luca, preparati un assolo di batteria perché te lo faccio fare. C'è già la batteria, ok, ve lo preparo. Quindi, praticamente, se ci sono dei gruppi, e sto parlando per fare dei nomi, anche degli Alma Mediterranea che sono partiti in 8 dalla Sardegna per venire a eseguire 2 brani nella metro di Milano, se ci sono più di 1000 gruppi artisti iscritti a Live sul sito www.live.it, mentre al Festival di Sanremo su internet si sono iscritti in 321, quindi sì. Live batte Sanremo 3-0. Tanto per dire, insomma, no? La buttiamo lì. Significa che c'è un enorme desiderio di potersi esprimere. E ti dirò di più, la qualità è nettamente aumentata, perché è un po' come quando succede che si dice astenersi perdi tempo. Giustamente Luca ha detto volevo fare il fumettista, che era già anche quello un settore in crisi, poi sì. Alla fine ho scelto la musica. Essendo la musica un settore economicamente in crisi, chi fa musica oggi è soltanto chi ha una vera passione. Quindi la qualità di tutti quelli che fanno musica, del prodotto di tutti quelli, è nettamente superiore al passato. Io mi trovo con gruppi straordinari. Live però ha un segreto, che non è soltanto venire ad esibirsi nella metro di Milano, ma intanto entrare in una community dove ti fai la tua pagina. Poi ci saranno le riprese, ci sarà iTunes soprattutto, perché noi abbiamo fatto dei contratti con un aggregatore bilingue, con una casa indipendente che si chiama Irma, dove abbiamo offerto a questi ragazzi l'opportunità di mettere in vendita la propria musica su iTunes e su altre piattaforme come Amazon e tante altre, ricevendo in cambio una percentuale talmente alta che le star non hanno quella percentuale. Quindi con un accordo anche fatto con iTunes, con Apple, con accordi molto stretti, con il fatto che l'AIMI nasce grazie al Comune di Milano, grazie a ATM. Quindi Red, una bella occasione, un'occasione concreta direi per i giovani. Livio, per i giovani attori? Ma in realtà... La scuola è fondamentale. Beh, la scuola è senz'altro è la cosa più importante, perché la formazione artistica viene da lì. Qualcosa sul genere del Live Me, probabilmente, anzi, esistono dei festival di teatro ai quali partecipano i gruppi provenienti dalle scuole di teatro. E... Invidi un po' Luca, che può approfittare di questa occasione? Lui come musicista, quindi tu come attore, vorresti una Live Me teatrale, Red? Quando io facevo in televisione Help e Roxy Bar erano dei live teatrali, perché io mi incontro dei registi che oggi sono famosi, non sto a fare tutti i nomi, che mi dicono: ma non ti ricordi che io sono venuto da te a Help e ho fatto il primo cortometraggio che avevo fatto? E io non mi ricordo neanche più, perché io ero talmente aperto, dato spazio a tutti, e quindi avevamo penso soltanto una volta con Tognazzi venne con Alessandro Gasma, avevano fatto un film. Dice: ti posso portare due miei amici musicisti che hanno fatto la colonna sonora? Certo, vieni. Andano questi due pazzi sul palco che fanno una jam session di 10 minuti nella libertà totale, e questi due pazzi erano Sergio Camariero al piano e Alex Pritti alla chitarra, con addirittura i dreadlocks. Quindi questi laboratori sono importantissimi, sono determinanti per far crescere questi ragazzi, ma soprattutto per dare loro forza per andare avanti, perché quando un ragazzino arriva, si trova con un palco come di Laimi o in una scuola un'opportunità teatrale dove c'è, che ne so, un grande regista, un proietto, un grande regista che ti guarda, ti ascolta attentamente, ti dà un consiglio, è una cosa incredibile, dà loro una forza pazzesca. Arrivano sul palco di Laimi, c'è l'amplificatore Orange, quello che suonano i Led Zeppelin, gli Oasis, c'è la batteria Luzzi, che è quella dei Beatles, addirittura quella trasparente che aveva John Bonham. Cioè, suonare con questa roba, ripresa le telecamere, presentare le droni, che comunque uno che ha sempre presentato delle star, eccetera, per loro è una forza incredibile. Assolutamente. Bisogna dare fiducia, Alberto. E a proposito di fiducia, Luca, tu sei finito su un palco, che è quello di Sanremo, visto da milioni e milioni di italiani, e quella è proprio stata la tua prima uscita pubblica. Oggi pomeriggio vai sul palco di Live Me. Facciamo ascoltare un breve pezzetto della tua canzone di Sanremo. Sì. E poi proviamo a chiederti qualche emozione legata a quel palco. Ok, va benissimo. Sole, cielo e lacrime, i sorrisi veri, tu non mi ripace. Luca! Eccomi qua, direttamente dalla canzone. E tu sei finito su un palco senza essere passato da un talent show, e questa è una delle preoccupazioni che ci racconta anche la mamma nella sua lettera. La gran parte dei ragazzi che oggi hanno successo hanno questa grande botta di visibilità e di popolarità legata a trasmissioni che creano il personaggio. Si può sopravvivere a questo fenomeno? Si può entrare in un altro percorso parallelo e diventare qualcuno che è riconosciuto, visto, apprezzato, anche senza quella botta di popolarità? Diciamo che a me è successo questo alla fine, e mi ritengo comunque fortunato, proprio perché a maggior ragione che, insomma, si sa che al di là delle questioni di mercato, nei quali non mi ci metto in quanto non sono un discografico, però diciamo, un mercato in crisi è più facile magari appoggiarsi a dei personaggi piuttosto che a degli artisti, e mi ritengo fortunato. E oggigiorno è difficile, e meno male, insomma, che ci sono organizzazioni dove si può fare quello che alla fine si fa, cioè suonare. Certo. Come diceva Red, persone che danno fiducia ai giovani. Livio, a un giovane attore chi può dare fiducia? Anche ci sono degli attori, che dei personaggi che sono diventati famosi e poi hanno studiato, e quindi hanno studiato recitazione, dizione, hanno così rifinito un po' il profilo, proprio basandosi sulla popolarità che avevano così acquisito e guadagnato in programmi di grande impatto. Chi può dare fiducia a un giovane attore? Beh, sai, io... riguardo al discorso che stavamo facendo prima, penso che di fatto nemmeno la vittoria a un talent show sia una garanzia di successo. Cioè, tu puoi vincere un talent show e da lì iniziare una carriera artistica, oppure finire nel dimenticatoio come la maggior parte. Quindi non è né più né meno che una scelta di seguire un percorso che può portarti a raggiungere i tuoi obiettivi oppure no. E quindi, ecco, lo stesso vale per una formazione invece più accademica. Sì, certo. Teatro o cinema? Teatro. Teatro. Teatro. Red, tu che cosa consiglieresti a un giovane attore che si muove i primi passi? Teatro o cinema? O tutte e due? Innanzitutto il teatro, anche perché... al cinema ci possono andare tutti, basta essere famosi. Purtroppo noi confondiamo abilità con popolarità, credibilità con riconoscibilità del marchio della persona. Io non sono molto d'accordo con i reality show, anzi per nulla. Ritengo che i reality show siano la morte della musica, ritengo che i reality show droghino le emozioni di questi ragazzi, creino dei mostri che durano con una scadenza sopra, nessuno si ricorda più. Io vi auguro che faccia altro disco di successo, ma di Marco Carta, che ha vinto Sanremo l'anno scorso, nessuno si ricorda più, e molto probabilmente nessuno si ricorderà più di chi ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno. Ma per come è concepito il reality stesso, io purtroppo ho assistito al grandissimo successo di Saranno Famosi, che erano i ragazzi del primo reality, che era poi sarebbe poi diventato Amici, ma arrivarono nel tour che stavo organizzando, muovevano 30.000 persone nelle città dove andavamo, e poi a settembre erano già imbarazzanti, perché bisognava lanciare le nuove star. Questo è purtroppo il dramma. Perché? Perché si creano prodotti che durano un anno. Quindi con una data, con la data di scadenza, dice Red. Questa casa non è un albergo. Eccoci tornati insieme, cari amici. I nostri figli decidono di fare un salto nel vuoto, Alberto. Sentono di avere un talento, mettono la loro passione al servizio di questo talento, sognano di trasformare il talento nel mestiere della loro vita. E qua mi domando, e domando anche a Livio e Luca che abbiamo in linea con voi, come si fa a capire che dal proprio talento deriverà il mestiere della nostra vita? Come si fa a decidere, come insomma Livio lo diceva, ero iscritto a scienze politiche, dopodiché ho detto no, ma io voglio proprio fare l'attore. E quindi è un po' un salto nel vuoto, ma ci investo tutta la forza, l'energia dei miei 20 anni. Ma di fatto io credo che non lo sai. Però fai quello che ti piace e ci metti tutto te stesso, e questa è la cosa più importante. Senti, a casa ti hanno aiutato o ti hanno detto vai, segui il cuore, segui la passione, oppure no, stai attento, cerca di ad esempio continuare l'università, perché non si sa mai, un pezzo di carta può sempre servire? Ma devo dire che a questo proposito i miei genitori mi hanno assolutamente appoggiato, perché avevano capito che era quello che volevo fare, e quindi non avrebbe avuto senso ostacolarmi in una scelta di vita di questo genere. Luca, a te com'è andato? Ma mi è andata similarmente, in quanto per quello che riguarda i miei genitori ho sempre avuto il loro appoggio. E infatti mi ritengo fortunato di questo, perché di solito, sai, dopo una certa età si inizia a dire trovati un lavoro normale. Fortunatamente, ecco, e se sono rose fioriranno, si dice, no? E invece... esatto. Mi ritengo fortunato di questo, assolutamente nessun ostacolo, anzi tutto il supporto, soprattutto morale, che alla fine è stato il carburante di questi 10 anni. Alberto, ma stavo come dicendo... papà della trasmissione, noi abbiamo visto la mamma della nostra mail e ci dice mio marito se ne lava le mani, dice che, no, che ci sbatta lui il muso dentro, io invece vorrei aiutarlo ma non so che cosa fare. Tu come papà cosa faresti? Hai papà all'ascolto? Ma credo che quello che mi chiedi è per me una domanda complessa, perché io non ho l'esperienza che mi deriva dall'aver frequentato il settore e conseguentemente avrei la paura, ecco, di lasciare andare mio figlio in un percorso su cui io non ho alcun genere di capacità di accompagnamento, di controllo. Infatti però... sei proprio il papà ideale, perché molto spesso, esatto, noi stiamo parlando di ragazzi che non sono figli d'arte. Okay. Credo però che i nostri figli abbiano proprio una vita lunga, che tra i 20 e i 30 anni ci si debba davvero mettere alla prova su tanti fronti diversi e ci si deve dare il tempo di provare veramente a mettersi in gioco e a scegliere quello che ci sta più a cuore. Penso che l'impegno con cui uno affronta sfide così complesse sia poi l'elemento determinante, cioè io come genitore posso sostenere un figlio che davvero ci mette anima e corpo per rincorrere il proprio sogno e lo fa con straordinario impegno, ed è un po' la storia che ci hanno raccontato. Tra l'altro leggevo proprio nelle note anche di Luca, cioè lui alla fine è riuscito a pubblicare il suo primo disco, gli ha dato come titolo Con la giacca di mio padre e l'ha proprio dato come una scelta di responsabilità. Cioè a tutti quei genitori all'ascolto che dicono i figli artisti in fin dei conti fanno una scelta un po' irresponsabile, lui ha scelto un titolo che racconta invece la responsabilità della sua scelta. Perché hai scelto quel titolo? Prova a raccontarcelo. Diciamo che il significato è questo, è appunto un passaggio di testimone, cioè io adesso affronto quella che è la mia vita e ci provo a farlo con la mia faccia, però con la giacca del padre, che in questo caso è quello che mi è stato dato e che forse mi sta aiutando a diventare grande, per quanto comunque sia già un po' grande, non sono così tanto ragazzino, però appunto è questo il significato che per me ha. Senti Red, Alberto diceva io non ho le competenze, faccio fatica, non conosco questo mondo in cui si potrebbero muovere ad esempio Luca e Livio, tu invece la competenza ce l'hai. Come genitore, che consigli ti senti di dare a chi all'ascolto si ritrova più o meno nella stessa situazione della mamma che ci ha mandato la mail, quindi desiderosa di appoggiare il figlio, ma questo mondo per molti di noi rimane solo un mondo che noi conosciamo attraverso la TV e quindi ci sembra comunque un mondo molto lontano, artefatto. Magari ci piacerebbe che il nostro figlio diventasse famoso, naturalmente vorremmo anche metterlo nella condizione di coltivare in modo efficace, serio il suo talento. Tu che sei un addetto ai lavori, che consigli daresti? Beh, io sono anche padre. Comunque intanto è sbagliatissimo la frase che tu hai detto, che però purtroppo dicono tutti i genitori: mi piacerebbe che mio figlio diventasse famoso. Allora, oggi si pensa che essere famosi sia un mestiere. Certo. Non è un mestiere. Tu puoi diventare famoso perché sei un bravo idraulico, perché sei un bravo medico, perché sei un bravo artista, ma non è che essere famosi sia, e questa è l'illusione che hanno dato i reality show. Secondo, io come genitore vorrei che mio figlio si potesse esprimere liberamente, questo indipendentemente dal risultato di fama o di successo che ha. Perché? Perché molto spesso la fama, io mi ricordo una volta tanti anni fa un artista, Genesis Pioris, mi disse: devi decidere nella vita se vuoi essere un vincitore a livello individuale ma perdente a livello di massa, o un vincitore a livello di massa ma perdente a livello individuale. Cioè praticamente tu devi fare ciò che ti senti, ciò che ti soddisfa. Allora, è chiaro che i genitori vorrebbero il figlio ricco, famoso, felice e tutte queste cose. Non si può. allora i genitori sono spaventati da scelte che non sono codificate, come anche quando un figlio dice io vorrei andare in India ad aiutare un ospedale di Madre Teresa di Calcutta, o vorrei andare a aiutare Emergency in Afghanistan. Sì. È chiaro che ti spaventi, ma è quello che il figlio desidera. Non è importante quanti soldi hai, non è importante morire diventando i più ricchi del cimitero, è importante vivere dando ad altri e condividendo con altri cose che sai fare. Se uno ha la fortuna di essere un artista e quindi di avere un'arte, bisogna dare libertà ai ragazzi di potersi esprimere. Attenzione, la mamma che vi ha scritto quella lettera che dice praticamente che il marito se ne frega e dice lascia che sbatti la testa, lascia che ci sbatti la testa è un modo di dire lascia che faccia lui, lascialo libero, non stargli addosso, non fargli creargli delle aspettative. Insomma, dobbiamo dare ai nostri figli un paio di ali. Noi tante volte lo diciamo in trasmissione, lo sottolineiamo, non sempre è facile. Allora, dopo i consigli di Red Ronnie, io approfitterei dei consigli di Livio e di Luca, voi che la state vivendo dal di dentro questa storia. Livio. A me piace molto una frase che usa Al Pacino nel discorso finale di Scent of Woman, quando è al tribunale, e dice che io nella mia vita tante volte mi sono trovato a un bivio e ho sempre saputo qual era la strada giusta, ma non l'ho mai presa perché era troppo difficile, era troppo dura prenderla. Io non lo so se ho preso la strada giusta, so che ho preso una strada dura e quindi spero che mi porti dove voglio arrivare. Luca, e tu? Diciamo che si cerca di rimanere vicini a se stessi, che sembra una frase fatta, ma forse è l'unica realtà innegabile. In parole povere, diciamo che prima di Sanremo, prima di tutto questo, io suonavo, già suonavo, lo sto continuando a fare ed è quello che mi rende felice, o perlomeno sereno. A volte non sono felicissimo, per carità di Dio. Beh, fortunatamente scrivo canzoni proprio perché non sono perennemente felice, però diciamo che l'importante è appunto essere dignitosi, vivere una vita dignitosa e vicini a se stessi, a quello che si crede. Io credo che Livio e Luca ci abbiano dato una bella lezione e ci abbiano fatto un'iniezione di ottimismo e di approccio positivo, no, al quotidiano e alle scelte. Alberto? Sì, hanno raccontato proprio anche la responsabilità forte, l'impegno forte che sta dietro ad una scelta apparentemente irresponsabile per molti adulti. Irresponsabile non è, e lo potete proprio toccare con mano ascoltando e verificando il loro impegno, quanto ci hanno messo non solo di quello che fanno ma anche di quello che sono nel loro sogno professionale. Ringraziamo Red Ronnie per essere stato con noi. Grazie Red, buon lavoro. Il mio lavoro inizia oggi pomeriggio dalle 14, quindi fra un po' alle 18, dove ci sarà anche Luca Marino. Certo, quindi vi vedrete allora tra poco. Quindi grazie a voi. Alberto, noi ci salutiamo. Livio e Luca, in bocca al lupo. Grazie. Si può crepi. Dire, vero? Voi bisogna aggiungere crepi. E intanto buon sabato a voi da Nicoletta Carbone e da Alberto Pellai.